Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di vino, ma in maniera molto particolare. Parleremo di solfiti, andremo a vedere cosa servono i solfiti nel vino, se vengono prodotti anche naturalmente senza aggiunta, se dura il vino senza solfiti, se si può arrivare a zero solfiti. Quindi ha tantissimi problemi che riguardano appunto la nitride solforosa, come si dice, come chiariamo subito, perché solfiti magari a qualcuno non dice nulla. Bene, faremo un giro con alcuni esperti e andremo a scoprire che ci sono dei grossi movimenti a proposito che tendono appunto a ridurre i solfiti. E non solo, però prima di iniziare sono già arrivati addirittura degli sms subito appena abbiamo nominato la parola solfiti. Io voglio cominciare a parlare di solfiti, ricordo innanzitutto numero verde 800 24 00 24 e i messaggi sms 349 238 6666. Voglio cominciare a capire il polso del mercato, cioè se il consumatore è sensibile o meno, oppure se lo sono solamente alcuni produttori, se lo sono degli opinion leaders. Ebbene, comincio con Sergio Soavi. Sergio Soavi è responsabile prodotti tipici COP, ma è un grande esperto anche di vino e sicuramente sceglie per la sua organizzazione buona parte dei vini. Buongiorno Soavi. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Volevo chiederti se voi, appunto, che siete della grande distribuzione, avete visto crescere la sensibilità del consumatore verso questo problema. Ma Davide, c'è un sistema oggi di attenzione alle cose che porta a far sì che tutta l'attenzione a ciò che contiene, all'origine del prodotto, sia al massimo dell'allerta su tutti i settori e quindi anche sul vino. Quindi le persone, soprattutto, sembrerà un controsenso, ma non lo è, in momenti anche di difficoltà economica, sono sempre più attenti al valore di ciò che acquistano e sempre di più vogliono avere la certezza della responsabilità che ci si assume nel portare un prodotto sullo scaffale e poi nell'acquistarlo. Quindi la sensibilità rispetto al mondo del vino è già alta in generale, perché se ne parla, perché comunque è un prodotto importante della nostra alimentazione, non solo del nostro stare insieme agli altri, del nostro relazionare. E anche sul vino abbiamo sempre più telefonate, anche i numeri verdi, di persone che chiedono: ma ho avuto mal di testa, ho comprato questo, ho comprato quello. Tant'è che noi da un anno, per esempio sulla linea base dei nostri vini, sulla linea Assieme, di cui a volte abbiamo parlato, che è un vino quotidiano, abbiamo già iniziato da 2 anni un lavoro con questi produttori, perché è anche sui grandi numeri che puoi cambiare queste situazioni, per andare a una drastica riduzione, e già da quest'anno abbiamo ottenuto questo risultato e con questa pandemia ancora di più, del contenuto di solfiti, soprattutto di quelli che non servono. Bene, e questo è il vero argomento. Rimani con noi, appunto, quelli che non servono. Allora andiamo da Carlo Alberto Gasperi, che è enologo della cantina sociale di Rovere della Luna, nonché fa parte di un movimento, di un'associazione che si chiama Free Wine. La parola dice già molto, vino libero, e vogliamo chiedere appunto a Gasperi cosa sta facendo questo movimento. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E questo movimento cosa sta facendo? Sta facendo una produzione, sta cercando di produrre dei vini, e ci sta riuscendo, a ridottissimo contenuto di solfiti, senza solfiti aggiunti, e lo sta facendo da 3 anni con un approccio molto rigoroso, molto scientifico. E noi come azienda abbiamo aderito fin dall'inizio, quindi dal 2010, producendo 2 tipologie, un bianco e un rosato, per cui oserei dire i vini più difficili da produrre a bassi livelli di solfiti. Senza Gasperi, lei ha detto appunto senza solfiti aggiunti. Beh, spieghiamo che nel vino c'è già un contenuto di solfito che produce naturalmente. Esatto, sì, c'è un livello di solfiti naturali prodotti dai lieviti, che questo livello può variare a seconda delle condizioni di vinificazione, condizioni in cui il lievito si trova a fermentare. Questo livello c'è, purtroppo la legislazione non distingue fra solfiti naturali e solfiti aggiunti, per cui paradossalmente ci possiamo trovare un vino senza nessun intervento esterno di aggiunta di solfiti, che però supera la famosa soglia dei 10 mg litro che ci obbliga a indicare contiene solfiti in etichetta. Soavi, volevo chiederti, ma c'è gente che torna al supermercato e dice: questo vino mi ha dato mal di testa? Non abbiamo dei segnali così drammatici, anche perché comunque il rapporto col prodotto vino non è conflittuale. In genere si tende ad attribuire il mal di testa più spesso al fatto di averne bevuto troppo che a quello che aveva. Però è indubbio che questa cultura positiva del che chiamano green, che è giusto che sia, cioè quello di non mettere niente di ciò che non è indispensabile al valore qualitativo del prodotto, è una cosa che si sta facendo strada. Non abbiamo dei segnali di persone che tornano dicendo questo, abbiamo però telefonate di persone che chiedono, che si informano, che vogliono sapere, che domandano cosa fa la Coop, che domandano cosa fanno i produttori, e credo che la grande distribuzione abbia la forza di orientare anche un pochettino la maniera di produrre le cose senza trovare un altro elemento di criminalizzazione di questo meraviglioso prodotto, però calma. Bene, ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Continuano a arrivare degli SMS. Chiedo a Carlo Alberto Gasperi, mi chiedono: ma senza solfiti, quanto, senza solfiti aggiunti ovviamente, quanto può durare un vino? Ma noi siamo appunto al terzo anno di produzione, le posso dire che ovviamente è un approccio, un processo che tutti gli anni viene perfezionato. Io ho qui davanti i nostri due vini, un Pinot Grigio fatto in purezza e una Schiava, quindi un rosato, e le posso dire che attualmente sono perfetti, sono veramente esprimono tutto il potenziale dell'uva di partenza. Non ho motivo di pensare che abbiano problemi di durata per quello che è il normale tempo di vita di un vino di questo tipo. Bene, sentiamo Antonella da Parma, una radioascoltatrice. Buongiorno Antonella. Sì, buongiorno Davide. Volevo comunicare questo. Io ho un ristorante biologico e approfitto per l'occasione per ringraziare Radio 24 per il premio Bravo Bio 2012 assegnato a me proprio quest'anno, lunedì scorso, al San a Bologna. E volevo dire che abbiamo dei vini biologici, ovviamente senza solfiti aggiunti, e ne vendiamo veramente tanti, oltre che per la mescita riusciamo proprio, anche il cliente apprezza tantissimo e li acquista. Bene, grazie Antonella. Sentiamo Lucio da Cuneo. Buongiorno Lucio. Sì, buongiorno. Volevo sapere, questi solfiti naturali sono veramente naturali o derivano sempre da sostanze chimiche usate sull'uva, tipo il solfato di rame o cose del genere? Bene, sentiamo Gasperi su questo. No, i solfiti naturali derivano comunque in gran parte dall'attività dei lieviti. Il lievito di per sé produce una quantità bassa di solfiti. Quello che stiamo facendo come gruppo Free Wine, che è questa associazione di più di 30 aziende italiane che producono questi vini, è anche di selezionare i lieviti che producono meno solfiti in assoluto per arrivare in bottiglia, come nel nostro caso, a 2-3 mg di solforosa totale. Bene, sentiamo Nello dalla provincia di Pisa, radioascoltatore. Buongiorno Nello. Buongiorno, io volevo sono un consumatore di vino biologico da diversi anni. La cosa che volevo sapere è i problemi che possono dare sia per la salute, essendoci o non essendoci i solfiti. Bene, questo è un tema, diciamo, molto tecnico, che sentiremo poi da un esperto sul finire della trasmissione. L'ho tenuto appunto in ultima battuta perché, diciamo, raccoglieremo questi quesiti, sentiremo con il dottor Longo. Quindi a fra poco, caro radioascoltatore, vi verrà data una risposta. Per il momento ringrazio Soavi e ringrazio Carlo Alberto Gasperi, e io ora voglio sentire Giorgio da Pordenone, per un motivo che mi sembra di capire che la sua domanda è un po' quella che vedo già da moltissimi SMS. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Volevo chiedere come mai nelle bottiglie non viene specificato la quantità di solfiti, come viene specificato per esempio la gradazione. Ecco. Secondo me, se uno avesse questa informazione, potrebbe scegliere senza dover provare prima ad avere mal di testa. Io per esempio sono stato operato, non ho la cestifellea, e se c'è una elevata quantità, che non so qual è esattamente la giusta proporzione, mi viene mal di testa se hanno dei vini con del solfito. Bene, la ringrazio Giorgio. Guardi, abbiamo con noi Angiolino Maule. Angiolino Maule, oltre a essere titolare dell'azienda agricola La Biancara, molto nota per i suoi vini, è presidente di Vinnatur, che è appunto un'associazione di viticoltori naturali europei. Questo naturali, io direi cosiddetti naturali. Angiolino, tu cosa ne pensi? Buongiorno a tutti intanto, grazie per la trasmissione Davide. Angiolino, io volevo chiederti appunto, penso, prego. Senza solfiti sì, ma senza solfiti senza tutto il resto anche, sai, perché non tutti i vigneti sono, e non tutte le uve sono vocate a fare vini senza solfiti. Noi di Vinatur ormai abbiamo fatto una grossa pubblicità, un grosso servizio al consumatore attento, dove 53 di noi, o 65 mi sembra in totale, siamo sotto a 20 mg litro. Ti dico con precisione che 53 di noi sono sotto a 10 mg litro. Scusami, noi, sotto 10... La battaglia contro la solforosa è iniziata 15 anni fa. Scusami Angiolino, ti volevo chiedere questo, tu hai detto sotto 10 mg, ma in realtà il vino naturalmente non produce dai 10 ai 12 mg di solfito? No, non sono d'accordo col signore che prima affermava, non ha dato una buona risposta all'altro signore di Como, dove chiedeva ma i solfiti naturali. I solfiti si producono anche con gli scarti dello zolfo che arriva in cantina durante la vendemmia. Se c'è stata fatta i primi giorni di agosto una solforazione o un trattamento di a base di zolfo e non ci sono state piogge di lavanti, si porta in cantina valori di solforosa altissime. Quindi diciamo che tu non sei molto d'accordo con questa legge comunitaria che ha messo dei limiti all'uso della solforosa molto ma molto alti. Assolutamente no, assolutamente no. Noi di Vinatur siamo per essere fuori da tutte le dicerie, tutti gli attacchi, siamo per fare vini da territorio, la solforosa non è del territorio. Sì. Quindi tu dici tutto naturalmente, certo. Da 5 anni abbiamo cominciato una bellissima ricerca basata sui lieviti e sui batteri, abbiamo scoperto cose meravigliose, cominciamo già a produrre vini senza solfiti, vini totalmente naturali, grazie alla ricerca e alla conoscenza che abbiamo potuto avere tramite il mondo scientifico. Bene, rimani con noi Angiolino, io ricordo il numero verde 800 24 00 24, e abbiamo con noi Luca D'Attoma, che è un enologo nonché coproduttore anche di un vino cosiddetto, di vini cosiddetti naturali. A D'Attoma voglio chiedere, D'Attoma, la legge non permette di mettere la solforosa contenuta in un vino in etichetta? No, intanto un saluto a tutti, grazie Davide. No, non permette, però giusto ci pensavo questa mattina, cosa dovrò dire? Ecco, mi hai proprio invitato a correre in questo caso, perché sarebbe secondo me bello, nonché positivo per il consumatore, poter leggere il contenuto di solforosa, in modo da dare delle indicazioni, perché altrimenti non ce la raccontiamo, ecco, detto un po'. Cioè, lei dice bisognerebbe dichiararlo, insomma, dichiarare quanta solforosa e non usare mezzi termini, oppure diciamo menare il can per l'aia, come si dice, così. Esattamente. Sì, perché a questo punto il consumatore è anche più tutelato, e perlomeno siccome come è stato detto prima, il limite di solforosa totale fissato dalla comunità, anch'io lo trovo estremamente elevato, non fa distinguo poi dei bravi viticoltori, e in questo caso vinificatori, che possono essere grandi o piccoli. Qui non è un fatto di uno che fa poco vino, tanto, no, ma un fatto proprio che ha un concetto ben preciso di fornire dei vini al mercato migliori. E quindi uno lo scrive, e quindi il consumatore automaticamente andrà anche a scegliere il vino con meno solfiti. Perciò ho una domanda ad un SMS abbastanza, diciamo, cattivello. Dice: ma il vino senza solforosa sopporta i viaggi, Luca D'Attoma? Dunque, il vino senza solforosa, questo aiuto, mi metti un po' alle corde, però devo dire che ci sono degli esempi. Dopo tanti anni di esperienza nel mio lavoro, posso dire che non sono necessari raggiungere delle quantità di solforosa oltre i 100 mg di totale, ma ho degli esempi con anche di 80 di totale, di vini che sono ancora molto longevi, quindi vuol dire che sono ancora prodotti anni fa e che non sono ancora molto vivi. Per questo direi che insomma ci stiamo lavorando per migliorare. Angiolino, rivolgo a te la domanda che ho fatto prima, che secondo me è molto importante, perché molti, diciamo, consumatori, molte persone pensano che un vino senza solforosa non tenga il tempo. Volevo chiedere tu cosa pensi. Da 17 anni che produco vini senza la solforosa, che esporto in Giappone, che sopportano il viaggio. A Parigi abbiamo fatto con le Rouge Le Blanc, che è una rivista bellissima francese, abbiamo fatto una verticale di tutte queste 17 annate. Ha colpito loro l'89, il 99 e il 2004 ha colpito loro. Quindi sto parlando di vini di ieri, l'altro ieri ancora. Bene, Renato da Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno Renato. Buongiorno, parla Renato di Vicenza. Ascolti, io volevo dare la mia testimonianza. Io sono asmatico a causa del vino. Allora, un mio amico mi ha salvato la vita, per modo di dire, perché da 20 anni avevo l'asma, ventolini sempre in tasca, e praticamente mi ha detto di non bere più vino, ma è l'anidride solforosa che causa questo, ma sono sicuro 100%. Io sono per il biologico, fare il vino naturale e non metterci niente dentro. Sono sicuro che l'anidride solforosa è un veleno per me, perché conserva il vino e non fa che si prolifichi il vino. Bene, mi scusi Renato, ma si sente a singhiozzo. Abbiamo capito sicuramente cosa lei voleva dire, dei benefici che le ha portato il vino biologico o cosiddetto naturale. Vedo che ci sono altri messaggi in questa direzione. Beh, volevo chiedere a Luca D'Attoma, un radioascoltatore in SMS mi chiede: come agiscono chimicamente i solfiti? Se puoi ripetere che non ho capito ma bene. Un radioascoltatore mi scrive: ma come agiscono chimicamente i solfiti una volta, diciamo, aggiunti, quindi adoperati per produrre vino? Hanno delle reazioni? Beh, hanno delle reazioni. Beh, innanzitutto nell'uva hanno una reazione in quanto sono antiossidanti. E sono anche antimicrobici questi solfiti. Parliamo in questo caso comunque di vino, ma nell'ambito vino, di anidride solforosa, e nel vino lo stesso hanno un'azione antiossidante, quindi preservano poi da un invecchiamento precoce. Certo che quello che devo dire a livello, diciamo, nostro di consumatori, beh, i solfiti comunque sappiamo che se sono in eccesso creano quello che può essere il mal di testa, il famoso cerchio alla testa, che quindi nei casi peggiori, come il signor Renato ha menzionato prima, di allergie. Però da questo punto di vista la reazione che producono i solfiti, ripeto, è una reazione che può essere molto controllata se ne vengono aggiunti pochi. Non so se ho risposto alla domanda. Bene, grazie, grazie. Ora abbiamo con noi anche un altro produttore, abbiamo Lino Olivastri, enologo, no, è caduta la linea. Bene, continuiamo la nostra chiacchierata con Vittorio dalla provincia di Reggio Emilia, un radioascoltatore. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a lei, dottor Paolini. Niente, io volevo, sono un viticoltore, sto proprio vendemmiando, e un piccolo anche produttore di vino, di Lambrusco. Specificavo questo però, che voi parlate di assenza di solforosa e poi ho sentito come tale dei residui di 80 mg. Ecco, nei residui di 80 mg oramai ci stiamo dentro in tantissimi, cioè voglio dire, io non supero i 20 grammi per ettolitro di solforosa, anzi praticamente 30 grammi di bisolfito, quindi circa 20 grammi di solforosa per ettolitro, che vuol dire 20 mg per litro. Voglio dire, bisogna chiarirsi bene sui termini, nel senso che la totale assenza di aggiunta di bisolfito in questo momento, ad esempio, io non sarei in grado di farlo, perché la protezione antiossidante non saprei proprio come altrimenti fare. Il fatto invece di contenere estremamente l'aggiunta di solfite e metterlo solo proprio quando si capisce che è necessario è una cosa che bisogna fare e che però è già in atto, e comunque bisogna in ogni modo scrivere sull'etichetta contiene solfiti anche quando appunto il livello è a 20-30, superiore ai 30 mg per litro. Angiolino, hai sentito questo intervento? Sì. L'ho detto prima, lo ripeto, non tutte le uve, non tutte le zone sono vocate a poter fare vini senza la solforosa, non tutte le particelle di un'azienda, cioè io per esempio 12 ettari, non tutte le mie uve le riesco a trasformarle senza la solforosa. Facciamo un vino semplice dove aggiungiamo solforosa e la dichiariamo. Da 5 anni scriviamo nella retroetichetta i valori ufficiali della solforosa. ho chiesto autorizzazione alla repressione frodi, che dove ha detto non c'è nessuna legge che dice che è vietato scrivere i quantitativi. Riusciamo a esportare vini con 2, 7, 4 di sorpresa totale, o anche 20 o 25. Che aveva ragione il produttore di Lambrusco, cioè, noi intendiamo senza la solforosa, senza niente, cioè, non aggiunta di lieviti, non aggiunta di altre diavolerie che possano aiutare in fermentazione e conservazione dopo. Bene, abbiamo con noi Lino Olivastri, anche della cantina del Consorzio Cantine Riunite d'Abruzzo, che fa parte di Free Wine. Buongiorno Olivastri. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. È faticoso arrivare a non usare solfiti aggiunti? Beh, è faticoso per alcune tipologie di vitigno, sì, per altre magari no. Per esempio i rossi è un po' più semplice, in quanto le sostanze polifenoliche danno una grossa mano, l'attenzione è un po' minore. Maggiore lo è, magari l'attenzione è maggiore nella produzione di vini bianchi e rosati, dove il contenuto polifenolico è sicuramente ridotto e quindi... bisogna stare un pochettino più attentini, sì. Lei è d'accordo su, diciamo, a mettere in etichetta il livello degli solfiti aggiunti? Sì, anche perché la normativa qui è un po', come dire, taglia le gambe a chi produce vini senza solfiti, in quanto il minimo è 10 mg litro, lì praticamente si può dire, si può levare la scritta contiene solfiti. Però ad esempio noi abbiamo prodotto del vino che ha dei solfiti ridotti rispetto ai 10 mg litro, però se vado a levare contiene solfiti nessuno eclatantemente andrebbe a vedere che io non ho dei solfiti, scompare la scritta, ma come dire, non lo posso pubblicizzare, se non io sarei sicuramente d'accordo nel scrivere il tenore di solforosa che ho raggiunto, anche perché è la solforosa che ha prodotto il lievito, quindi è una solforosa naturale del chimismo fermentativo. Il ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Abbiamo con noi ora Oscar Farinetti, bene, tutti ormai lo conoscono come il creatore di Italy, ma so che lunedì lancerà un movimento, un manifesto che si chiama Vino Libero, credo proprio in questa direzione, senza solfiti e senza tante altre cose, perché vino libero vuol dire molte cose, così Farinetti? È così, lunedì lanciamo questa cosa che si chiama vino libero, che a noi piace moltissimo. Abbiamo pensato che il vino ha bisogno di essere liberato, ha bisogno di essere liberato di tante cose, prima ancora delle cose fisiche, ha bisogno di essere liberato dalla burocrazia, ha bisogno di essere liberato dagli abbinamenti, secondo me, ha bisogno di essere liberato da queste analisi sensoriali di altissimo livello dove non si capisce niente, ha bisogno di essere liberato da prezzi troppo elevati e dal fatto soprattutto che a fronte di questi prezzi troppo elevati al contadino viene pagato ben poco. Poi invece sotto la parte fisica ci va pulizia, il vino oltre a essere buono deve essere pulito, quindi eliminazione completa dei concimi chimici in campagna, eliminazione completa dei diserbanti in campagna. Noi è 7 anni che nelle nostre aziende, sia a Fontanafredda che a Borgogna, facciamo un lavoro di questo tipo. Purtroppo abbiamo aumentato il costo del lavoro del 7-8% circa, però ci viene riconosciuto questo gap. E infine un lavoro in cantina contro i solfiti e contro i lieviti non naturali. Sui solfiti eliminarli completamente è quasi impossibile, anche se presentiamo già 2 vini a solfiti zero lunedì assaggeremo 2 vini a zero solfiti. Zero solfiti vuol dire senza solfiti aggiunti chiaramente, quelli naturali della campagna, quelli ci sono, bisogna fare in maniera che bastino. Per adesso noi diciamo 3 cose semplici che tutti possono capire: libero dai concimi chimici, quindi eliminazione completa, libero dagli erbicidi, quindi eliminazione completa dei diserbanti, e dose massima consentita dei solfiti meno 40% rispetto al consentito di legge. Tuttavia vi devo dire che la media è meno 75, su quel numero ci stiamo bene. Bene, rimanga con noi perché ora abbiamo Alberto Grasso. Alberto Grasso è l'agronomo appunto dell'azienda Fontanafredda. Io chiedo a Grasso, ma è possibile liberare così tutto, come ha detto il suo patron Farinetti, per fare una buona agricoltura dai terreni? Buongiorno Paolini, sì, è possibilissimo, noi lo facciamo ormai da tanti anni, quindi In agricoltura chiaramente l'asticella si sta alzando sempre di più, l'impegno è sempre maggiore, come diceva Farinetti i costi salgono leggermente, ma è assolutamente possibile, lo si può fare. Ecco, allora sentiamo, rimanga con noi Grasso, sentiamo Carlo dalla provincia di Belluno, buongiorno Carlo. Sì, grazie, buongiorno. Volevo sapere appunto la differenza tra bisolfito e neosolfito. Ecco, allora lo chiediamo a Grasso se ci dà questa risposta. Grasso? Non ho capito bene la domanda. Comunque, bisolfito e neosolfito. Allora, il bisolfito comunque è un qualcosa di aggiunto che viene fatto artificialmente, il neosolfito presumo che sia il solfito che viene originato dai lieviti durante la fermentazione. Mi premeva ricordare che il solfito e i solfiti sono presenti in molti alimenti e non soltanto nel vino. Chiaramente nel vino stiamo cercando di ridurli al minimo, a volte lo si riesce, a volte meno. L'importante e in questi discorsi partire con dei ragionamenti strutturati che nascono dalla vigna e arrivano fino alla cantina. Voglio leggere un sms di un radioascoltatore e poi rivolgo la domanda a Farinetti. Dice: è chiara una cosa, un vino rosso necessita di meno solforosa di un vino bianco fresco, fruttato, aromatico. Se mettiamo il valore in etichetta non facciamo altro che offrire degli impropri parametri di qualità che distorgono le scelte del consumatore poco informato. Farinetti, lei cosa ne pensa? Non sono molto d'accordo. Allora, intanto il limite massimo dei vini rossi è 150 mg litro e nei vini bianchi è 200 mg litro. Questa ha ragione l'ascoltatore, c'è differenza. I bianchi necessitano di maggiori solfiti aggiunti. Bisogna mettere in etichetta tutto. Io sono rimasto, da quando ho incominciato a interessarmi di cibo, dal 2004 a tempo pieno, ho notato questa grande differenza che sugli altri prodotti che mettiamo nel nostro corpo fanno scrivere tutto. Sulla Coca-Cola c'è scritto che c'è i coloranti, c'è scritto qualsiasi cosa, c'è scritto le dosi, eccetera. Sui vini non c'è scritto niente, c'è scritto conviene bisolfiti, sì, ma quanti? Io vorrei saperlo, vorrei sapere cosa è stato fatto in campagna, se sono stati usati, che chimica è stata usata, vorrei che fosse scritto, almeno il tipo di grapes, cioè di vini usi, di, come si dice, di vitigni usati, neanche quello non si dice. Su certi vini di OGC non si può scrivere da cosa è composto, si può usare un 15% del resto, ma non si dice quale. Cioè sul vino, a fronte di una burocrazia pazzesca, oltre 10 enti che ci controllano, a fronte di una montagna di carta che regola l'altezza dei caratteri delle etichette, dall'altra parte è libero, è permesso un po' tutto. Invece io vorrei che fosse scritto sull'etichetta più possibile e noi lavoreremo sempre di più in questo senso. Bene, sentiamo Marco dalla provincia di Modena, un radioascoltatore, buongiorno Marco. Buongiorno dottore, è un piacere parlare con lei. La ringrazio per aver sollevato questo discorso dei solfiti, perché io ho riscontrato che da qualche anno, oltre al discorso della testa, del mal di testa, mi sono trovato anche, dopo aver bevuto magari un po' di vino bianco o frizzante, anche un'acidità di stomaco abbastanza fastidiosa. E che questo mi ha sempre portato un po' ad escluderlo. A me piace molto il vino come compagnia, come altre cose, proprio mi piace. Io volevo sapere, siccome è una cosa che ho riscontrato solo da qualche anno, cioè è cambiata la quantità di solfiti negli anni e soprattutto, visto che è aumentata anche la quantità di cantine e di vino sul mercato, se a volte viene utilizzato anche per coprire qualche mancanza che ha il vino stesso. Senta, Marco, io direi che invece è il contrario, mi sembra che ci sia una riduzione nel tempo dei solfiti, mi sembra che molte cantine stiano tentando questo e oggi appunto vedo molti interventi, free wine, vino libero, ci sono altri, c'è Vin Natur, ci sono le associazioni di produttori cosiddetti naturali che stanno cercando di far questo, quindi io vedo un miglioramento. Comunque grazie, sentiamo Antonio Sartori dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, io volevo solamente riferire che l'associazione nostra, io faccio capo al laboratorio enologico Polo di Oderto e noi già da molti anni, anche come centro di ricerca, facciamo questo tipo di lavoro. Cioè? Abbiamo anche fondato anni fa, facciamo i vini senza solforosa. Già abbiamo dei nostri clienti, delle nostre aziende che seguiamo direttamente e che producono, che commercializzano vini senza solforosa. Quindi perché volevo dire che già abbiamo presentato anche il Vinitaly l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, delle verticali dei nostri vini come vino libero. Infatti il nostro si chiama Vino Libero, il nostro, diciamo così, il nostro nome, il nostro appellativo, e il consumatore ci sta spiegando veramente ragione, e sono dei modi nuovi di produrre a garanzia della qualità, a garanzia della tipologia del prodotto e con l'estrema sicurezza del risultato. Grazie Sartori. Mi rivolgo a Farinetti, visto che ci sono tutti questi movimenti, non si può fare un movimento unico, Farinetti, così almeno cioè il consumatore magari viene più sensibilizzato, ci sono più mezzi per sensibilizzarlo. Ma certo, io sono molto contento. Guardi, ieri ero a Montefalco e ad un convegno proprio dedicato alla green economy nel vino, e ho visto proprio molti giovani produttori da Capraia, Planeta, tanti bei nomi oltre chiaramente ai nostri, che si impegnano su questo fronte. C'è veramente un fronte molto bello in Italia in questo senso, e quindi sarebbe bello unirsi, ma senza creare dei carrozzoni, perché poi noi italiani siamo bravi a fare i carrozzoni con i presidenti, i vicepresidenti e tutto il resto. Dobbiamo farlo snello e rapido. Quello che io sto rompendo molto le scatole al ministro Cattani, al ministro dell'agricoltura, perché ritengo che ci dovrebbe essere un cappello, ci dovrebbe essere un disciplinare Italia in alto, grande sull'agricoltura. Provi a immaginare, Davide, un grande disciplinare Italia che dice: in Italia in agricoltura non usiamo concimi chimici e non usiamo diserbanti, punto. E chi rispetto a questo disciplinare può fregiarsi del marchio della bandiera italiana sul suo prodotto. E poi scendiamo nei vari settori, per esempio immediatamente nei vini, dichiarare che in Italia la dose massima consentita di solfiti è il 50% rispetto alle norme comunitarie. Secondo me sarebbe una grande operazione di marketing anche nel mondo, faremo arrabbiare un po' i francesi, ma sai, dobbiamo recuperare questi 250 anni di gap che abbiamo dai francesi, e secondo me una mossa di questo tipo, cioè il prodotto italiano è più libero, è più pulito, farebbe bene all'Italia. Bene, abbiamo sentito varie posizioni e devo dire che qua sono pieno di SMS, tutti parlano di mal di testa, però io andrei un po' cauto su questo, a criminalizzare il vino, perché sicuramente credo che il vino sia prodotto in maniera sana, non crei questo problema, e molte volte è anche la quantità di quello che si beve. Io sono convinto che molti probabilmente accusano il vino, in realtà bisognerebbe andare a capire quanto ne hanno bevuto. Abbiamo con noi un enologo importante, abbiamo Riccardo Cottarella. Buongiorno Riccardo. Ciao Davide, come stai? Bene, bene Riccardo. Senti, ma lo dobbiamo proprio liberare questo vino da tutto, diserbanti, solforosa, tu cosa ne dici? Mamma mia, che ti devo dire? Io mi sembra tanto che il frutto di questo rumore venga, scusami se te lo dico, non riguarda sicuramente da una stampa chiassosa alla ricerca del gossip, dello scandalo. Tutto ciò che oggi facciamo nei vini, e che possiamo fare cose che non era possibile fare, ti ricordi la famosa discussione con il produttore toscano, no? Certo, certo. Che non era possibile fare qualche anno fa, e mi riferisco al discorso senza solfiti aggiunti, è possibile grazie alla scienza, grazie ai mezzi che questa ci mette a disposizione, fare i vini senza solforosa aggiunta. Poi ti do anche una chicca, una novità. Io lo paragono a guidare una macchina senza freni, una macchina molto veloce senza freni, cioè ci vogliono le mani adatte per fare un vino senza solforosa. Non è che il primo che dice faccio vino senza solforosa, vabbè, gioca, poi quello che tieni è roba tua. Cioè il vino è un discorso serio, è biologia, è fisica, non è poesia da focolare, no? E a volte noi confondiamo quella che è la scienza enologica con un'empirica immagine di un qualcosa che non c'è. Ho capito. Ha detto bene qualche tuo ascoltatore, ci sono uve adatte a fare questi vini, altre uve no. L'altro ascoltatore che ha detto non riesce a farlo senza. Certo. Sono dei vini rossi, che sono delle uve rosse capaci. Ti dico, la chicca è questa qui. 20 aziende che io seguo quest'anno, dopo 8 anni, dopo quella tua trasmissione, quindi sono 6 anni, hanno iniziato un ciclo di sperimentazione, aziende italiane e estere, e quest'anno per la prima volta su vini rossi molto ricchi di tannini, perché è l'unico antiossidante che resta senza solforosa, andranno in produzione con vini senza solfiti aggiunti. Ma credimi, è un percorso veramente complesso e difficile, che non è in grado di stabilirlo o di urlarlo né un giornalista né un produttore che pensa di fare i vini come lo faceva suo bisnonno. C'è la schiccatura, c'è la selezione degli acini, dei grappoli, c'è un intervento in vigna. Le uve devono essere pulite, le vigne perfette, le esposizioni ideali, Cioè non è una cosa così, se il primo tratto faccio un senso forse sì, possiamo far tutto, poi quello che ottiene lo sai tu. Bene, mi piace molto questo intervento perché ha riportato un po' forse coi piedi in terra, ma ora abbiamo Vincenzo Longo. Vincenzo Longo è dirigente dell'unità operativa Istituto Biologia e Biotecnologia Agraria, CNR di Ricerche di Pisa. Buongiorno Longo. Buongiorno dottor Paolini, buongiorno tutti, a tutti gli ascoltatori. Tutti parlano di uve diciamo che fanno male, lei invece diciamo parla di uve che fanno bene. Sì, esatto. Intanto faccio una premessa veloce. Noi, proprio perché ho sentito parlare di solfiti, di solforosa, di riduzione, eccetera, noi come Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR di Pisa collaboriamo ormai da circa 3 anni al progetto FreeWine come partner scientifici e lo scopo della collaborazione è proprio la valutazione della qualità e salubrità dei vini che aderiscono al gruppo FreeWine. Il nostro studio si incentra, diciamo così, sull'utilizzo degli antiossidanti naturali da utilizzare per ridurre proprio o eliminare l'anidride solforosa e i suoi derivati. E quindi il mio staff esegue tutti gli anni test sui campioni di vini per avere un quadro completo, diciamo così, del profilo e delle proprietà salutistiche. Detto questo, cosa possiamo dire? Il vino fondamentalmente fa bene se è un vino di qualità, di salubre, 2-3 bicchieri di vino al giorno aiutano e sono tantissimi gli studi che fanno vedere che a livello cardiocircolatorio, perché appunto è una ricchezza, ci sono molti antiossidanti naturali che arrivati nel nostro organismo aiutano a riequilibrare quello che potrebbe essere, diciamo, la presenza di radicali liberi, che sono molecole chimiche che danneggiano le cellule e che invece, diciamo, questi antiossidanti che arrivano attraverso l'alimentazione, quindi attraverso il vino, vanno ad aiutare e quindi il nostro organismo è più pronto a eliminare. Dottor Longo, guardi, la interrompo perché forse c'è una domanda per lei. Mario, sì, dalla provincia di Mantova. Buongiorno Mario. Buongiorno a lei. Una precisazione, una puntualizzazione, visto il tema molto, a mio avviso, molto importante. Esistono, e penso che sia diffuso su tutto il territorio nazionale, queste, diciamo, cantine sociali, quindi io non sto intendendo vado nella grande distribuzione o nell'enoteca a comprare la bottiglia, ma vado appunto in queste cantine, sì, sociali dove c'è il classico rubinetto, Custoza, Refosco. Ok, il concetto è che lì non c'è nessuna menzione al discorso dei solfiti e io ho proprio avuto la percezione, legandomi anche al discorso del mal di testa che voi citate, che c'è questa cosa, quindi lì a mio avviso... Scusi, lei vuol dire che vuol fare il collegamento tra solfiti e mal di testa, mi sembra di capire, lo chiediamo subito al dottor Longo. Esatto, allora diciamo che quando un additivo arriva nel nostro organismo deve andare incontro a un metabolismo per essere eliminato e se di questo additivo ne arriva tantissima di roba il nostro organismo non è in grado di eliminarlo velocemente e quindi da qui ci può essere il problema del mal di testa e quindi a mio avviso la riduzione della solforosa e dei solfiti è sicuramente, diciamo, un passo avanti, nel senso che questo aiuta perché un eccesso può provocare anche il mal di testa, diciamo. Quindi un eccesso di consumo? Un eccesso di consumo e quindi certo, di quantità, insomma. Diciamo, di quantità, quindi bene, dobbiamo cercare di ridurre. Bene. E quindi diciamo tutti quelli che sono gli sforzi, sto seguendo con molta attenzione la trasmissione, tutto quello che porta a una riduzione dei solfiti, a mio avviso, va nella direzione giusta, è sicuramente molto molto positivo. Sentiamo Maurizio dalla provincia di Treviso, buongiorno Maurizio. Buongiorno, telefono perché noi dal 2003, per primi nella cantina di Sorbo Serpico, abbiamo messo a punto un protocollo per la vinificazione dei vini senza solfiti. A distanza di 9 anni abbiamo anche costituito una associazione tra produttori e disvini, proprio perché fare i vini senza solforosa è possibile. Ovviamente, come diceva il collega Riccardo Cottarella, si deve partire da una grande ricerca scientifica e da un supporto tecnico-scientifico fenomenale. Noi abbiamo investito molto su questo settore e possiamo affermare che si possono fare i vini senza solforosa in qualsiasi tipo di vino, bianco, rosso, rosato, in qualsiasi, solo che dobbiamo effettivamente mettere al bando parecchi additivi ammessi per legge. Facciamo un esempio: i sali ammoniacali. Se il consumatore sapesse che la legge ci permette di usare il solfato ammonico o l'ammonio fosfato, che sono 2 concimi, cioè si parla di eliminare le concimazioni ed è ammesso aggiungere 2 concimi nel vino, è folle. Quindi dobbiamo azzerare tutto quello che è di chimico e pensare al sistema biologico. All'interno della natura ci sono tutte le soluzioni, il vino è in grado di autoproteggersi, però non servono due analisi o due intuizioni o due assaggi dell'enologo. Si deve partire da una base scientifica, però questo è un percorso che andrebbe divulgato e far conoscere in maniera più approfondita, perché fare i vini senza solforosa si va fuori dalla globalizzazione, dal gusto globale. Si riesce ad avere un gusto fruttato, delle sensazioni che non conoscevamo. Cioè, bene. Dal prosecco al lambrusco, al cabernet, saltano fuori dei profumi che non si pensavano fossero... Maurizio, mi sembra di capire che lei è uno studio professionale di Treviso, è così, no? Sì, ci siamo conosciuti. Bene. Sì, ho capito benissimo. Bene, devo dire che gli ultimi interventi stanno andando in una direzione molto, molto precisa, cioè diciamo professionale, in cui applicare tutti i sistemi possibili della scienza, quindi di quello che si ha a disposizione, e mi sembra di concordare che non si può fare così tanto per fare un vino senza solforosa, perché in questo momento magari il mercato tira da quella parte. Credo che sia un discorso molto ma molto serio, come il discorso molto ma molto serio è quello del mal di testa e di altre intolleranze, che in questa trasmissione non siamo in grado di affrontare, perché non è una trasmissione che segue appunto un discorso salutistico. Io credo che la collega Carbone forse potrebbe fare benissimo un discorso molto più scientifico appunto sul mal di testa e su tutti i problemi che derivano dalla solforosa. Mi spiace, non ho più tempo per Roberto da Roma come radioascoltatore. Io vi saluto e vi dico anche che dal prossimo sabato, per 12 sabati, il Sole 24 Ore uscirà con le guide del gastronauta. La prima riguarderà le trattorie, poi ce ne saranno altre 11 a seguire. Quindi io vi do appuntamento poi domani al Riposo del Guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e alle 23.05. Buon weekend da Davide Paolini.